Allora, non si vuole togliere nulla al pane surgelato e poi reinfornato per l'occasione, che sicuramente sarà anche molto buono. È sicuro però che un consumatore che vuole il pane fresco deve naturalmente avere la possibilità di individuare quello che è veramente tale. Quindi la Federazione Italiana Panificatori, insieme all'Associazione Nazionale Città del Pane, ieri in una iniziativa congiunta ha intanto rilanciato la proposta di questo bollino di qualità, ma poi ha fatto qualcosa di più, perché ha chiesto addirittura un intervento del governo per regolamentare in modo più incisivo la produzione del pane fresco, un po' come accade per il latte. E in sostanza, Presidente, ci racconti un po', avete addirittura lanciato una petizione popolare che coinvolgerà i vostri 25.000 associati? Allora, questo è lo step secondo di quanto noi avevamo detto quando ci siamo trovati per la presentazione del bollino bianco. Quindi l'iniziativa continua, la difesa del pane artigianale per noi è prioritaria, e quindi l'accordo con le città del pane va in queste direzioni. Quindi una federazione che racchiude i 25.000 produttori di pane artigianale fresco insieme a Città del Pane, che è un'associazione che fondamentalmente riunisce le istituzioni nei comuni dove si produce del pane di alta qualità. Questo perché noi abbiamo la necessità ormai, in questo momento difficile anche per la nostra categoria, di avere il giusto riconoscimento di ciò che facciamo tutte le notti. Che il pane è altrettanto buono quello cotto e riscaldato, lo ha detto lei, e sicuramente non l'ho detto io. Su questo ho qualche dubbio. Sono convinto che i milioni di consumatori italiani che ogni giorno vengono nei nostri panifici per prendere il pane che noi garantiamo con la nostra faccia ogni giorno, un prodotto appena fatto la stessa notte, con la garanzia e la sicurezza di dove viene prodotto, non sia neanche lontanamente paragonabile a un prodotto che garanzie tecnicamente non ne offre. Ecco, Presidente, no, io ho detto che è buono, perché naturalmente molto spesso chiaramente facciamo degli acquisti anche dettati dalla fretta e magari non abbiamo tempo di ricercare il panificio vicino casa nostra. Detto questo, importante è un'altra, è riuscire a riconoscerlo. Tutti dobbiamo essere coscienti di ciò che compriamo, noi chiediamo solo questo, senza demonizzare nessuno, noi chiediamo esclusivamente che, mi permetta, la signora Maria, la nostra cliente giornaliera ideale, possa scegliere quando va nei banchi della grande distribuzione che cosa compra, ma deve essere informata che se compra un prodotto che non è fresco, intanto deve essere scritto che non è fresco per cominciare, e poi deve essere scritto dove viene prodotto, soprattutto quando e dove. Ecco, a proposito di questo, Presidente, c'è una sua dichiarazione che ha rilasciato ieri proprio a Roma nel corso di questa conferenza stampa congiunta con la Città del Pane, e sulla quale le vorrei chiedere una spiegazione. Lei ha detto, lo leggo dalle agenzie che ho ritrovato relativamente appunto alla giornata di ieri: c'è una bella differenza fra il pane fresco e quello che viene prodotto chissà quando e chissà dove, magari in Ucraina, e che seguendo la catena del freddo a meno 20 viene convenientemente spacciato per un prodotto appena sfornato nei banconi della grande distribuzione organizzata. Addirittura da questi posti noi lo importiamo, è stata una sua provocazione? No, la globalizzazione impone che tutto si può fare. Oggi il mercato globalizzato senza dazi di fatto permette l'importazione da paesi anche extra UE. E allora, dove il costo della manodopera, che come lei si ricorda nella nostra chiacchierata e come ricorderanno gli ascoltatori, è comunque il costo che incide di più nella produzione del pane, si produce dove costa meno. Ho capito, quindi il consumatore, dite voi, deve sapere quello che compra. L'etichetta di definizione oggi del pane che compriamo, che cosa indica e che cosa vorreste che indicasse? Allora, oggi il pane è pane tout court. Quindi è pane quello che lei compra nel panificio del fornaio sotto casa, ed è pane quello che compra in qualsiasi altro posto, compra anche in GDO e magari è surgelato. Appaiono delle denominazioni, che è prodotto da un impasto surgelato, scritto estremamente in piccolo negli ingredienti, e si scrive che è stato convenientemente terminata la cottura nel punto vendita dove si compra. Ma non si parla né da dove viene né soprattutto quando è stato prodotto, che è la cosa più importante. Io devo sapere se il pane che mangio è stato prodotto oggi, ieri, un anno fa o due anni fa o nella stessa notte quando è fresco. Allora io credo che, ritornando alla nostra cara signora Maria, nel momento in cui decide di andare a comprare latte per il proprio figlio, dice: io decido di comprare il latte fresco oppure no. Se decide di no, prende il latte UHT, prende altri prodotti che sono buoni ma comunque non sono freschi. Se invece decide di comprare il latte fresco per suo figlio, chiede il prodotto fresco o prende dal banco del supermercato il prodotto fresco e sa che cosa compra. Compra un latte italiano, compra un prodotto che gli dà un certo tipo di garanzie. Noi chiediamo solo questo. La legge, fra l'altro, è già stata approvata nel 2006 e i regolamenti attuativi noi li aspettavamo per il 2007. Poi il nostro paese qualche volta ha degli inceppamenti, siamo nel 2010 e ancora non ce li abbiamo. Attuativi ancora non si vedono. Presidente, sì. L'accordo con Città del Pane va in queste direzioni, stimolare le nostre istituzioni e i nostri governi affinché questo regolamento di attuazione di una legge già emessa, già emanata, sia semplicemente attuato. Ovviamente il tema è un po' anche quello della possibilità di panificazione che è stata data alla grande distribuzione organizzata, ma in questo luogo pane fresco non ne possiamo trovare in maniera assoluta, esiste qualche centro commerciale, qualche grande catena di grande distribuzione per l'appunto che ci presenta un prodotto fresco esattamente come quello che viene venduto nei vostri, nei vostri forni? La liberalizzazione del 2006 del ministro Bersani ha dato essenzialmente la possibilità a tutti di panificare e quindi in grande distribuzione e non piccoli panifici si sono aperti delle superfici, ma comunque parliamo di superfici di panificazione che sono ben sotto l'1,5-2% al massimo della capacità produttiva del nostro paese. Un'ultima cosa, Presidente, perché già il tempo è volato questa mattina. Lei ha detto che quello di cui parliamo oggi, cioè la petizione popolare che avete lanciato, è il secondo step di un'operazione appunto complessiva più ampia che permetterà, che dovrebbe permettere nel futuro al consumatore finale di dare, di avere appunto gli strumenti per conoscere il pane fresco. I prossimi passi quali saranno e soprattutto come intendete organizzarla questa petizione? Andremo dal nostro fornaio e troveremo il documento per apporre la nostra firma? Allora, la Federazione Italiana Panificatori con il proprio settimanale che viene consegnato a tutti i panificatori italiani ogni settimana, in questo numero che arriverà mercoledì della prossima settimana ci sarà la petizione da ritagliare, fotocopiare e preparare per la firma dei nostri consumatori. Quindi è un'operazione che coinvolgerà tutto il nostro paese. Io mi auguro che il terzo step sia quello di parlare insieme con lei e di dirci che finalmente i regolamenti del pane attuativo del pane fresco sono stati attuati. Devo fare il filo narrativo, come dicevo prima, per cui naturalmente lei ci documenterà più presto, ovviamente. Ma certo, su questo. Ma c'è una cosa che mi dà molta soddisfazione. Io parlai con lei, credo, una delle prime interviste a proposito del lancio del Berlino Bianco. Sì, a settembre. La prima autocertificazione, io con gioia le dico che l'abbiamo consegnato in oltre 1 milione di esemplari. 1 milione, a settembre erano qualcosa come 600.000, sì, perfetto, quindi siete arrivati ad 1 milione. Presidente, io devo salutarla. Mi riesce a dire solamente in 10 secondi, anche se è una questione molto più complessa, cosa pensa di tutta la questione del pane che si butta ogni giorno in molte città? Guardi, io gliela riassumo in un dato da 2 secondi. Abbiamo parlato di 180 quintali su Milano. Se noi dividiamo i 180 quintali per gli abitanti di Milano e provincia abbiamo una media di 6 grammi per persona, meno della crosta che si lascia sulla tovaglia ogni giorno. E quindi dice che non è un problema? Non lo so, me lo dica lei. Beh, va bene, ne parliamo un'altra volta, non sono completamente d'accordo. Che 10 briciole per consumatore siano un problema, poi se le mettiamo assieme vengono fuori certi tipi di numeri. Noi sappiamo che in ogni caso lo scarto all'interno delle famiglie, 6 grammi per persona, è difficilmente individuabile ed è difficilmente Però la media di Trilussa è sempre, come dire, una filosofia molto triste secondo noi. Ma ne riparliamo un'altra volta. Grazie, buon lavoro, Presidente. Grazie, lasciamo sfornare le sue baguette. Buona giornata, Alessandro. Oggi è Sentiva quasi il profumo. Fumo. Oggi parliamo di mercati. Sono state delle brutte giornate per le dichiarazioni di Obama sulla riforma delle banche, ancora per le preoccupazioni sulla Grecia, e oggi monitoriamo la situazione. Alle 8.33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano, economia e lavoro, questi punti principali del primo discorso sullo Stato dell'Unione tenuto dal presidente americano Obama nella notte italiana. La priorità è creare posti di lavoro, ha detto Obama. La ricetta in 4 punti, riforma finanziaria, innovazione soprattutto nell'energia, più esportazioni e investire nell'educazione. 2 persone sono state messe a morte in Iran, erano state condannate in relazione ai disordini scoppiati dopo le elezioni presidenziali di giugno, lo riferisce questa mattina l'agenzia iraniana ISNA. In Italia oggi il Consiglio dei Ministri si terrà a Reggio Calabria, tra i punti principali all'ordine del giorno il piano straordinario contro le mafie. Il ministro Sacconi presenterà anche un piano straordinario contro il lavoro sommerso al sud. Infine per il calcio, il Milan è fuori dalla Coppa Italia, l'Udinese vince a San Siro infatti 1-0 e accede alle semifinali. Stasera per i quarti di finale si affrontano sempre a San Siro Inter e Juventus. E allora alle 8.34 minuti il nostro sondaggio di oggi vuole andare a capire che ne pensate, da che parte state. State con Guido Bertolaso o state con Hillary Clinton? La vicenda è quella di Haiti. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero, il sondaggio di Radio 24. Bertolaso ha fatto bene definendo patetici gli aiuti ad Haiti, ha toccato un nervo scoperto, oppure insomma fanno bene gli americani a risentirsi, ad aver anche aperto un fronte diplomatico chiuso dal ministro Frattini, dice il caso ormai è chiuso, però insomma Hillary Clinton, segretario di Stato, si è molto adombrata e risentita. Che ne pensate? Da che parte state? Il 60% di voi state votando in tantissimo. Per il momento il 60% di voi dice stiamo con Guido Bertolaso. Dovete votare su radio24.it. Voglio salutare e ringraziare di aver accettato l'invito Lucia Annunziata. Buongiorno. Buongiorno. È la conduttrice di In Mezz'ora su Rai 3 che ha scatenato con quell'intervista. Vogliamo risentire i due passaggi fondamentali, Annunziata. Cioè da Haiti eravate in diretta con il capo della protezione civile Bertolaso che ha detto questo. Dico che lei è stata troppo buona, perché per una addetta ai lavori si rileva, appunto, passate ormai a quasi 2 settimane dalla tragedia, c'è ancora moltissimo da fare, girando per il territorio si vede molto poco, e quindi credo che sia stata davvero purtroppo una situazione patetica e che si sarebbe invece potuta gestire molto meglio, ed invece di essere la prima volta che finalmente il mondo si mobilita e funziona bene, vediamo che sia stata l'ultima volta che il mondo che funziona ha fatto in questo modo. Situazione patetica, e poi anche ne ha avuto per Bill Clinton, che è arrivato lì, si è fatto riprendere un po' dalle telecamere. Bill Clinton ha avuto un incarico da Obama di seguire l'emergenza, si è fatto appunto riprendere e poi è tornato in America. Qui è venuto un altro grande uomo che si chiama Clinton. Sì. Ma vedere Clinton che prende le cassette d'acqua e le sposta. Quelle sono solo opportunità fotografiche, non serve assolutamente niente. Doveva mettersi nella quartiere generale dell'emergenza e doveva gestire lui l'emergenza. Allora sarebbe stata la svolta grande. Allora, Lucia Annunziata, lei l'ha difeso anche ieri sulla stampa, Guido Bertolaso, ha detto ha toccato un nervo scoperto. Certo, fa un po' effetto sentire quello che ha detto. Fa un po' effetto sentire, che il 70% dei suoi ascoltatori la pensi come lui. Adesso no? Il 61, però fa 61, effetto, fa effetto sentire Bertolaso dire ma Clinton doveva fare questo, mettersi lì, guidare. Insomma. Vabbè, ma perché bisogna fare un... Guardi, io Guido Bertolaso l'ho incontrato la prima volta quando l'ho visto lì ad Haiti davanti alle telecamere. Prima l'avevo incontrato per dire vuole venire, le ho detto sì, a che ora? Più o meno questo è quanto conosco Bertolaso. Lì c'era intanto un reportage mio che lui commentava, secondo me, ed era molto molto chiaro, quindi io credo anche che lui fosse in una situazione in cui non potesse dire cose tanto diverse, insomma. Quindi, poi il problema è questo, il problema è bisogna avere il patentino per criticare e il doppio patentino diplomatico per criticare gli Stati Uniti. Mi sembra un po', diciamo, mi sembra che sia stata la reazione della classe dirigente italiana un po' esagerata, francamente, e che abbia questo poi avuto riflessi negli Stati Uniti. Allora, le sottopongo quello che il Wall Street Journal scrive, sono 3 medici che sono andati lì con un ospedale da campo dopo pochi giorni. Oggi Italia Oggi ripropone in italiano, quindi può essere letto da tutti. Le critiche di questi medici americani, ne leggo alcune. La risposta degli Stati Uniti al terremoto dovrebbe essere considerata motivo di imbarazzo. Il nostro intervento non ha avuto alcun sostegno da nessun ramo del governo degli Stati Uniti. Anzi, ci hanno osteggiato, non ci facevano atterrare. Poi, al momento della partenza, ci ha sconvolto vedere in aeroporto interi depositi di medicine inutilizzate, cibo, forniture circondate da centinaia di soldati che se ne stavano lì senza alcun motivo. Se ci fosse stato un comando centrale organizzato dedicato al soccorso medico, avremmo potuto fare molto di più. Allora, Wall Street Journal dice così, Annunziata. Sì, lo sapevo che Wall Street Journal, l'avevo letto ieri su Wall Street Journal. La questione è questa, si dirà adesso... però il Wall Street Journal è all'opposizione di Obama, cioè se si fa così con le critiche, quello non può parlare perché è un junior high official, quello lì come si permette perché è italiano, questo è all'opposizione, noi perderemo la verità, cioè come dico io, se ci sono, se cammina come una papera, fa così, nuota come una papera, fa quacca come una papera, è una papera. Quando 3 persone cominciano a dire ad Haiti, a distribuzione, perché poi, guardi, parliamo di distribuzione, non è una critica dire non hanno mandato niente, stanno sparando solo. Ci sono gli aiuti e non c'è la distribuzione. Quante volte bisognerà ripeterlo prima che qualcuno se ne renda conto? Sono organizzati male. Dopodiché, dice, chi ci va di mezzo in questa stupida battaglia delle parole? Permetta di dire stupida, perché poi alla fine uno dice i poveri non mangiano e noi discutiamo di se quello che ha detto che i poveri non mangiano aveva il diritto di dirlo e dall'altra parte si può criticare, non, quell'altro è ferito. Cioè, questa è una battaglia delle parole, è su una questione di sostanza che ha detto Bertolaso e su cui io sono perfettamente d'accordo. E la questione di sostanza è quella, sono stata lì una settimana, lo scrivono tutti i nostri giornalisti, lo scrivono tutti, la macchina degli aiuti ha fatto flop. D'altra parte, dopo 15 giorni, adesso sono di più, non vedete a Tahiti una tendopoli, perché quando gli aiuti sono organizzati si vedono quelle belle file di tendine, no? Quelle blu, quelle bianche, la distribuzione, se questo non c'è da nessuna parte vuol dire che qualcosa non funziona. Allora, intanto nel salutare Stefano Menichini, che la sta ascoltando, il direttore d'Europa, Menichini, buongiorno. Buongiorno. Vorrei anche annunziare un'ultima cosa su Hillary Clinton. Lei ha detto, beh certo, ma forse magari un po' malignamente, le ha toccato Bill Clinton, il marito, e magari Hillary Clinton, ma anche... Guardi, non c'è nessuna malignità in questa cosa. Bill e Hillary sono un intreccio ufficiale di conflitti di interesse. Tant'è vero che Hillary stava per non avere il suo posto perché il problema era la fondazione di Bill, va bene? Hanno dovuto accettare di far fare lo screening ai soldi che Bill aveva dalle fondazioni. Non è che gli americani non hanno intrecci di interesse, ce li abbiamo solo noi. La storia è molto strana, cioè secondo me è borderline anche per loro ed è imbarazzante. Cioè, la signora Clinton, per carità, intelligentissima, bravissima, non discutiamo, ma qui stiamo discutendo di un conflitto di interesse. È stata la First Lady, quando il marito ha chiuso, grazie all'accumulo di potere della macchina del marito, ha fatto il senatore e poi ha tentato di fare il presidente degli Stati Uniti. Se ci fosse riuscita, oggi avremmo un altro Clinton dopo il secondo Bush, avendo avuto, come dire, avendo trasformato a questo punto l'America in una democrazia ereditaria. Francamente io non faccio neanche una discussione di bravura, faccio una concezione di conflitto di interesse. Io fossi stata il Clinton non avrei mai potuto immaginare che uno di noi, ma per ragioni democratiche, per ragioni filosofiche, non per ragioni personali, di tentare di essere il secondo presidente femmina dopo il primo. C'è qualcosa che non funziona. Loro teorizzano il conflitto di interesse. Queste cose io le ho scritte ben prima che Hillary fosse un come Bertolaso, ma le ho scritte. Anche di Haiti. Allora, chi ha criticato Bertolaso? Stefano Menichini, in un editoriale d'Europa, tra l'altro lei Menichini lo conosce, con Bertolaso ha lavorato anche in passato. Sì, e, insomma, a dire non tanto magari sul punto, noi non siamo stati ad Haiti, Lucia Annunziata c'è stata, insomma ci ha raccontato, però come dire ha proprio sbagliato, cioè che cosa ha sbagliato? Certe cose non si dicono così? Ma guardi, io intanto Lucia Annunziata ha fatto egregiamente il suo lavoro come sempre, questo è totalmente fuori discussione. Anche Bertolaso è uno abituato a fare egregiamente il suo lavoro, invece secondo me in questa occasione ha fatto proprio quello che lui ha sempre odiato veder fare dagli altri, cioè si è presentato in un posto, è stato 2-3 giorni, forse di meno, che ha passato prevalentemente davanti alle telecamere e ai taccuini dei giornalisti e ha sparato delle sentenze verso una situazione che evidentemente non aveva capito. Io credo che Bertolaso ha detto una cosa sicuramente sbagliata, e cioè che c'era un eccesso di intervento militare a Port-au-Prince, ad Haiti. Sicuramente sbagliata, perché chiunque è stato lì, e anche i nostri colleghi giornalisti lo testimoniano, dicono che a Port-au-Prince e l'intorno non si consegna neanche una bottiglia d'acqua se intorno non c'è una copertura militare consistente, e tutte le immagini che vediamo testimoniano di questa necessità prioritaria, anche se è antipatico da dire, prioritaria. Poi Bertolaso ha detto una cosa diciamo così, diplomaticamente e politicamente inappropriata da parte di un membro del governo, un membro di un governo che soltanto pochi mesi fa ha chiesto agli Stati Uniti di intervenire in Abruzzo per sostenere l'opera degli italiani nella ricostruzione dell'Aquila e dei beni artistici e culturali. Ma la critica non è il fatto che non siano intervenuti in libertà, è il come, è il come, dice. Certo che sono gli Adaiti, ma è un disastro. E infatti arriviamo a questo. Comunque no, fammi rimanere su questo punto, perché non è affatto secondario, perché se tu hai dei rapporti istituzionali e politici con un paese al quale hai chiesto sostegno in un'occasione peraltro per certi aspetti simile, non vai ad attaccarli nel momento in cui sono maggiormente esposti in un'operazione di soccorso che la Casa Bianca evidentemente considera strategica anche per la propria immagine interna. Un colpo basso, è stato un colpo basso anche diplomatico. Questo non è un fatto secondario. Il terzo punto, il coordinamento. Qui Bertolaso ha detto una cosa che è troppo ovvia, perfino banale, perché l'abbiamo letto da tutte le parti e ce lo testimoniano tutti quanti i presenti. Però attenzione, perché non dimentichiamo che Port-au-Prince è morta più persone di quelle che sono morte a Hiroshima nel primo giorno dopo la bomba atomica. Un paese senza infrastrutture, senza un governo, senza una polizia, senza una protezione civile. Quando Lucia, che avrà ragione anche secondo i vostri ascoltatori, ha il 99%, non al 60%, parla delle belle file di tendine colorate e allineate, un pochino mi stupisce, perché lei conosce davvero la situazione anche del Centro America molto bene. E che cosa pensiamo che sia Port-au-Prince, che sia Coppito? Cioè, avete presente che cosa significa? No, ma guardi, ma adesso ce lo dirà, tra l'altro, un altro ospite che ci sta per raggiungere dopo il traffico. Cos'è Port-au-Prince, cos'è Haiti? 8,46 minuti, la percentuale che sostiene Bertolaso è salita al 61%, più uno sul sito radio24.it. Io sono o blanco o negro, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, state con Bertolaso che definisce patetico il coordinamento degli aiuti da Haiti, o con Hillary Clinton che si è arrabbiata? Ascoltatori, siate sintetici, vi prego. Marcello, Udine, buongiorno. Da sì, che buongiorno parte a lei e a tutti gli ascoltatori. Con chi sta? Ma guardi, io ho partecipato, mi faccio riferimento a quella che è stata la mia esperienza. Sì. Nel 99 con la protezione civile, quando mi sono recato insieme a altri compagni in Albania per la missione Arcobaleno, e niente, pensando a quell'esperienza io non posso dire altro che quando ci si trova in una situazione di guerra, secondo me come quella che c'è ad Haiti, perché lì anche peggio, Haiti è un disastro. È una guerra, quindi in un contesto dove praticamente, come diceva il signore prima, non esiste un'organizzazione, non esiste un governo, ecco, bisogna capire che la situazione è veramente molto difficile. Va bene, Luca da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, intanto intervengo perché anch'io ho partecipato alla missione come protezione civile in Abruzzo, ma io devo dire al giornalista intanto che Bertolaso non è responsabile dell'immagine degli Stati Uniti, e quindi la cosa più importante lì in quel momento era la distribuzione degli alimentari. Io le faccio un esempio: a noi arrivavano veramente un esempio stupido, ma per farle capire, a noi arrivavano gli aperitivi come aiuti, e come fai a distribuire gli aiuti come aperitivi? Cioè non ha senso. Quindi la cosa più importante era far arrivare questi prodotti attraverso la distribuzione alle persone, e non vedo perché dovrebbe essere normale la militarizzazione. La militarizzazione non le sta bene, non so, forse le può dare una risposta Andrea Gentile, che saluto. Andrea Gentile, buongiorno. Sì, buongiorno. Fino al 2008 è stato mission manager dell'operazione ONU ad Haiti. Allora Bertolaso, le chiedo, rispondendo agli ascoltatori, Bertolaso ha esagerato, ha sbagliato secondo lei, e lì ci vuole una militarizzazione perché Haiti non è coppito, come ci ha detto Stefano Menichini, il direttore di Europa? Allora, buongiorno. Premesso, militarizzazione non è mai una bella parola, e all'ONU cerchiamo di evitarlo questo approccio quando non vi sia una minaccia militare, per cui rimane peraltro il fatto che Haiti non ha una forza armata, non esistono ad Haiti le forze armate, c'è la polizia nazionale, una polizia nazionale a livelli inimmaginabili di malorganizzazione, di... Il cellulare adesso lo recuperiamo il cellulare di Andrea Gentile. Lucia Annunziata vuole replicare a Menichini, che dice Giusto per correttezza. sì. Adesso stiamo parlando di militarizzazione, questo non è quello che ha detto Bertolaso. Bertolaso ha parlato di un eccesso di forza militare per la distribuzione, ne parlava nel contesto, dire questa roba è stata affidata alle forze armate, non parlava di militarizzazione nel senso di soldati nel centro o di soldati, e diceva un eccesso di forza militare e i militari non sono adatti alla distribuzione, all'intervento dopo catastrofe, perché è una questione di assistenza alla società. Tanto è vero che lui diceva l'approccio è come l'approccio è quello di distribuire un po' di acqua, un po' di cosa e andare via pensando che è fatto. Cioè lui sosteneva, perché ovviamente nessuno che è stato a Haiti non sa che se tu vai con un pacco, cioè se tu porti un pacchetto di caramelle fuori dalla tua borsa, non è che riesci a distribuirla, riesci soltanto a provocare il caos tra 100 bambini che litigano tra loro, questo si sa. Ma il problema non era la questione, è che la forza militare da sola non bastava a fare, e su questo, e comunque io, guardi, ho partecipato stamattina a questa discussione per una ragione molto semplice, perché io penso che quello che Bertolaso ha detto, quello che stanno dicendo gli altri, dimentichiamoci un attimo Hillary Clinton, gli americani eccetera, è che ad Haiti dopo 15 giorni gli aiuti alla popolazione non sono sufficienti. Allora, vogliamo guardare al contenuto o vogliamo perderci come sempre in Italia, nel mondo occidentale, a fare un discorso su chi doveva dire chi? Cioè, io il punto ho citato questa mattina per dire, vogliamo prendere atto che non importa chi l'ha detto X, Y, eccetera, eccetera, forse la macchina degli aiuti va un attimo rivista. Cioè, lei l'ha scritto anche per ieri. Vale per l'Italia, vale per i francesi, vale per l'ONU. E per quanto riguarda l'America centrale, conosco molto bene, rispondo a Stefano Minichini, mio amico Stefano. Proprio per questo dico che la storia delle tende non ha a che fare con Colpito. In Africa si prendono le persone, si portano lontano, si mettono le tende. È significativo. Allora, io vi ripeto solo questo perché adesso io devo andare. Sì, ma sono morto finito. Probabilmente 200.000 persone, ce ne saranno 100.000 lì sotto ancora. Ad Haiti ci sono cadaveri putrefatti dappertutto, ogni filo di acqua e di pozzanghera c'ha dentro infezioni di vastissima portata, il cibo, l'acqua eccetera eccetera raggiunge la popolazione in maniera molto lenta e molto occasionale, è una catastrofe enorme. Bene, lì c'è una sola possibilità di fare, spostare la popolazione il più possibile fuori, dinamitare la città a questo punto, tutte quelle le rovine, perché se no si dinami, e portare fuori intanto i cadaveri, portare in fare fuori tutto quello che c'è da fare e ripulire. Oltretutto, mentre noi parliamo, questa situazione igienica, non so se voi vi rendete conto, lì è febbraio, tra l'altro a maggio cominciano le grandi piogge, con i cadaveri putrefatti dentro sarà un disastro medico. E lei dice, Bertolaso ha detto solo quello che lei ha detto ieri sulla stampa, ha scritto, cioè ha detto una cosa vera o falsa, questo è il punto insomma di cui discute invece di discutere del resto. Va bene, io mi devo fermare, mi spiace con Andrea Gentile, abbiamo recuperato il ritardo ma siamo in chiusura, il cellulare non ci ha aiutato, ci sarà un'altra occasione. Ringrazio Lucia Annunziata, Stefano Menichini, direttore di Europa, è salita di poco, sempre di poco, ma al 62% coloro che dicono Bertolaso ha ragione, stiamo con Bertolaso, potete votare ancora su radio24.it. non mi resta che ringraziare anche Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia, do la linea Oscar Giannino e noi ci ritroviamo domani 7:30.